tu puoi. Cosa un po' questo. Ah, Francia, registro tutto, tanto c'ha 300.000 ore. Per vedere se sono le stesse. Che bello! Rimettilo! Un'altra cosa che senso potrebbe quando il materiale che si può pensare libero.it. Così? Sì, tutto di nascosto. Anche la cappa? Sì. Thank you. benvenuti agli studenti della Tor Vergata. E volevo sapere, ho ricevuto dalla Servaddio l'elenco della vostra classe. E io adesso faccio l'elenco, se c'è qualche assente che non viene mai e quindi devo considerarlo comunque non nella classe, me lo dite, ok? Fiaschetti? Non viene mai. Non viene mai. Non viene mai. Quindi si è ritirata, ok. Tamburlani? Alzare la voce, per favore. Se state zitti mi sentite. Catania? Presente. Cenciarelli? Presente. Federici? Presente. Grimozzi? Fuori. Dio Tallevi? Presente. Santoro? Presente. Assente oggi solo. Casale? Capo di Ferro? Polverigiani? Murru? Quindi non la considero. Marzo? Impiglia? Magini? Colonna? Presente. Damizia? Presente. Napoli? Presente. Salis? Non viene mai. Salis? No, non è mai venuto. Sarebbero 2 mesi. Neccia? Presente. Ferreri? Presente. Sposito? Presente. Petrucciani? Ecco. Crocianelli? Presente. Bertolini? Presente. Farina? Presente. Petralia? È fuori. È quello che sentivo prima. Fabrizi? Presente. Colantonio? Presente. Frediani? Presente. Gioia? Presente. E Caruso? Quindi siete 29 effettivamente frequentanti? No, siete... qui è saltato un numero, 28. Siete? Petralia? Allora. Alessandri, Angiolillo, Antonini, non ho capito, state zitti, Bacluti, Bianchini, Bicchierai, Bizzarri, Cappelloni, Cariello, Certomà, assente, Coccia presente, De Fazzi, Ettolini, Evangelista, Masciocchi, Matteucci, Mistretta, Muti, Pietrella, Bongetti, Retice, Rimedio, Sangineto, Sant'Agnello, Scagnello, Schibilliti, Stirfe, Tomisani, Aspettiamo. voi questa settimana avreste dovuto fare una lezione con la Mattia? Sì. Non l'avete fatta? No. So che non c'è Roma questa settimana, giusto? Quindi state fortunatamente nella stessa situazione, perché anche voi iniziate con Palmieri, neurologia la prossima settimana, giusto? Perché in realtà, siccome le mie ore sono tante, siccome voi venite da fuori, è stato fatto oggi e quest'anno un programma un po' diverso rispetto a quello degli altri anni, cioè sono state fatte tutti incontri di 3 ore che saranno molto pesanti per me e per voi, non mi direte alla fine, perché 3 ore è pesantissimo. Però insomma, per cercare di limitare gli spostamenti e concentrare è stato fatto così, vediamo come va. Vediamo che diventa molto pesante, semmai vi chiederemo di venire una volta in più, ma fare magari 2 ore anziché 3, francamente potrebbe essere. Vedremo. La mia difficoltà oggi nell'iniziare la lezione, per cui insomma vediamo un pochino di colmare alcune lacune se ci sono, quindi me lo dite subito se ci sono, se parlo di qualcosa di cui non avete già sentito parlare. È che siccome devo trattare nell'ambito del corso integrato la riabilitazione neurologica, iniziare a parlarvi della riabilitazione delle varie patologie o comunque della riabilitazione in generale in ambito neurologico senza aver ancora sentito parlare di neurologia e di che caratteristiche abbiano le patologie neurologiche, è un po' difficile per voi seguirmi, quindi io devo necessariamente impostarmi un po' su nozioni generali che comunque sono importanti almeno per il momento, e poi mi metterò d'accordo già con la Palmieri, è una cosa collaudata perché lavoriamo insieme, la Mattia invece quest'anno per la prima volta perché c'era la prima cosa con voi, quindi ho cercato di contattarla però non c'era, e quindi insomma mi metterò d'accordo in modo che andremo di pari passo, perché se io parlo della riabilitazione dell'emiplegico, non avete ancora fatto l'emiplegico in neurologia, cioè devo spiegare io cose che invece sono di pertinenza della docente, quindi in questa lezione faremo comunque un argomento che è importante, è un'introduzione alla riabilitazione in neurologia che è completamente diversa da quella che avete fatto nel primo semestre in ambito ortopedico-traumatologico, perché riposa su dei presupposti assolutamente diversi, partono dalla base comune ma poi c'è molto di più, un pochino più di complessità diciamo. Quindi vediamo di entrare in questo mondo completamente diverso in ambito riabilitativo e parlando di generalità che non sono poco importanti, ma sono molto importanti perché vi aiuta a guardare il paziente neurologico nel modo giusto e quindi a poter affrontare in modo giusto anche la sua riabilitazione. Posso fare una domanda? Sì. Le slide che presenteranno? Poi dopo ci darà tutto. Allora, tutto quello che vedrete proiettato io ce l'ho già riportato in fotocopie, quindi darò delle fotocopie, anche perché se anche mi dessi su una penna, su un supporto, no? È comunque parziale, io più che dei libri, perché prima mi chiedevo il rappresentante, più che dei libri, io darò anche magari delle indicazioni su dei testi dove andare a vedere. Ma di fatto, siccome è la riabilitazione neurologica non è trattata su un libro soltanto e trovi tutto. C'era una volta un bel libro della Verducci, il CASH, che trattava tutte le patologie, era un buon compendio, non lo fanno più, non si trova più in nessun modo. Quindi l'unico trattato che contempli gran parte delle patologie di cui parleremo a lezione è un trattato di 4 libri, che è Formica e vari altri autori, è un tono, cioè sono 4 volumi, è una spesa enorme, è più di quanto vi serve, e allora ho pensato di fornirvi fotocopie inerenti a tutto quello che io dico e qualche cosina in più, quindi vi rimane anche qualcosa in più rispetto a quello che io dico, su tutte le patologie, quindi non ci sarà argomento che io tratterò a lezione del quale non avrete del materiale su cui studiare, su cui riportare tutto. Quindi poi se volete andare a vedere su dei testi vi posso anche dire alcuni testi dove potete andare a vedere qualcosa in più, ampliare se volete eccetera, però diciamo ai fini dell'esame il materiale che io do è tutto quello che dico a lezione e qualcosa anche in più, perché ovviamente non è che posso dire proprio tutto, ci sono anche delle particolarità che poi troverete per vostra consultazione, per se volete ampliare eccetera, va bene? Quindi vi darò tutto in modo cartaceo, perché queste sono qua, cioè saranno una ventina di un po' di più diciamo delle che vi proietto, ma il resto tratti dei libri, fotocopiati da libri, da sono dispense vere e proprie. Quindi studierete su quelle, farete le fotocopie. Mi raccomando, lo dico da questo momento, ogni anno si crea un problema con le fotocopie perché mi tornano in meno le fotocopie, mi tornano quelle fotocopiate male, per cui io poi l'anno successivo do una schifezza di fotocopie a quelli dell'anno successivo, perché se mi ritornano cioè, quelle peggiori, è ovvio che il mio originale ormai è perso, non sono riuscita sempre a riottenerlo, qualche volta ho potuto rifotocopiare, altre volte no. Quindi mi raccomando, ridatemi i miei originali e le altre copie volete dire. Però io ci tengo che me le teniate così, perché altrimenti negli anni vado a disperdere questo materiale che ho. Alcune cose le cambio, però insomma il grosso poi è quello. Quindi ridatemi l'originale. E vi do il materiale alla fine di ogni argomento trattato, in modo che poi voi ve lo fotocopiate, la successiva mi riportate l'originale. Il programma ve lo darò insieme al materiale che vi do, quindi il programma già c'è nella... Non ce l'ho, quindi non ho nessun problema a darvelo immediatamente. L'altra cosa da dirvi, ecco, voglio sapere da che punto partiamo, cioè con che nozioni di base. Certo, in neurologia non ho fatto niente, adesso mi si grazie. Allora, le uniche nozioni di clinica neurologica che dovreste avere è quella inerente alla patologia pediatrica in età infantile, che avete fatto al primo semestre. Allora, mentre per voi so che la Zoccolillo ha fatto le paralisi cerebrali infantili, e in questo senso io credo lei vi abbia fatto anche, cioè ovviamente un po' di clinica, cioè vi ha spiegato che cos'è una paralisi cerebrale, vi ha detto che ci sono una serie di alterazioni di riflessi, vi ha detto grosso modo come si evolve il movimento, no? C'è una sequenzialità nelle acquisizioni delle tappe motorie che non è casuale, è ben specifica, legata alla maturazione del sistema nervoso. Quindi avete idea di quelli riflessi che sono presenti nell'età evolutiva, no? Bene. Voi avete fatto con De Luca, credo? Chi è che vi parla? Questo semestre. Questo semestre? Sì. Ma dovete fare il primo semestre? C'è la parte ortopedica che abbiamo fatto. Lo so, ma il primo semestre non c'è il corso integrato di pediatria? Sì, ma è la parte di riabilitazione, chi l'ha fatta? Ah, però patologia ortopedica? Sì. Quella che a noi fa il terzo, capito? Sì, infatti stavamo qui del terzo. È col nostro terzo, giusto? E quindi con voi ho questo problema. Quindi a me bisogna spiegare. Allora, quindi voi avete fatto già alterazione del tono, perché c'è l'alterazione del tono, che cosa significa ipertono, come si riconosce, come si parla. Okay. Vabbè, devo riprendere con loro un pochino l'argomento, per cui sarà un ripasso. Poi comunque saranno le dottoresse di neurologia che vi amplieranno. Io intanto per quello che mi occorre per questa lezione vi darò alcune informazioni in modo che mi possiate seguire. Poi lo farete con le cose. Allora. Allora, intanto come introduzione direi questo, di rivedere il concetto di riabilitazione rispetto alla neurologia. Non so, voi in ambito ortopedico avete cominciato a vedere quest'anno ovviamente la riabilitazione, no? In ambito ortopedico vi sono state nominate alcune tecniche particolari da utilizzare? Che modalità di trattamento riabilitativo vi è stato proposto per le patologie ortopediche? Vi avranno parlato di terapie fisiche sicuramente, facilitazione neuromuscolare. Facilitazione neuromuscolare, altrimenti conosciuta come tecnica CAPA. Di questo vi hanno parlato? Sì, poi di contagio, mobilitazioni attive, passive attive assistite, per i macchinari, per la valutazione di vita del paziente. Valutazione che era impostata su che tipo di, su che filoni? Valutazione di cosa? Valutazione del paziente in ortostatismo, in pedostatismo, anche posteriore laterale, quindi quelle diciamo, le deformazioni ortopediche, come le microscopiche. Quindi la ricerca di asimmetrie, sì, questo come visione generale. E poi nell'analitico cosa si valuta nel paziente ortopedico? La forza muscolare quantomeno, no? La funzione articolare, quindi in pratica fino adesso siete stati abituati a valutare, voi qualcosa di più, insomma voi in particolare, siete stati abituati a valutare il paziente che avete di fronte da un punto di vista meccanico per lo più, no? Quindi andavate a valutare il range articolare, andavate a valutare lo stato dei muscoli, se erano trofici o meno trofici, no? Se erano, quanto forti erano, no? Questi muscoli. E poi la postura, no? Che è un insieme di elementi che vengono dai vari distretti e messi insieme in un risultato finale che è il mantenimento delle posizioni, giusto? Allora, e quindi la riabilitazione in quel caso, se ci pensate, è una riabilitazione, per esempio ho detto pompage, ho detto no, tecniche di rinforzo, eccetera. Era una riabilitazione molte volte, in molti casi, più delle volte, diciamo molto segmentaria, cioè diretta al distretto interessato dal problema. Vuoi una riduzione articolare, vuoi un problema muscolare. E poi, diciamo, come discorso globale, c'era anche il discorso globale, la valutazione della postura, no? Eventuali compensi, eventuali asimmetrie, no? Quindi c'è una visione, come vi ho detto, anche posteriore, laterale, sotto vari punti di vista, perché poi alla fine, diciamo, dopo aver lavorato sul particolare, bisogna andare a rimettere un pochino, no? in armonia tutti i vari distretti che compongono l'individuo, perché ogni volta che c'è una lesione in un distretto, poiché noi siamo abituati a lavorare con tutto il corpo, se un elemento cambia il suo modo di funzionare, automaticamente cambia il modo di funzionare dei distretti vicini, perché sono in stretta relazione. Questo discorso globale, molto valido sul paziente ortopedico, è tanto più valido nel paziente neurologico, laddove il problema in genere raramente è focale, è sempre molto generale. Può interessare l'intero individuo, può interessare primitivamente come tipo di lesione metà un emicorpo o la parte inferiore del corpo. E quindi se già nel paziente ortopedico si andava a guardare il globale, nel paziente neurologico è assolutamente indispensabile fare una valutazione globale. E mentre nel paziente ortopedico andavamo a vedere essenzialmente il distretto periferico, quindi una valutazione anche nell'analitico del tutto meccanica, nel paziente neurologico questo è troppo riduttivo, non ci basta. Oltre a vedere problemi meccanici, quindi articolari e di lunghezze muscolari, bisogna andare a valutare molto di più, cioè bisogna andare a valutare altri elementi che adesso vedremo insieme, perché quindi andremo a valutare il tono, che ha una particolare variazione, alterazione a seconda della sede di lesione a livello del sistema nervoso. E andremo a valutare anche le caratteristiche del movimento, quindi più che la quantità di movimento, di forza che il muscolo esprime, la qualità del movimento, cioè come si muove il paziente. Perché spesso, cioè in alcuni casi, non c'è un'alterazione della forza, ma c'è un'alterazione dell'uso della forza, e quindi di come poi viene messo in atto il movimento. Quindi sarà una valutazione più delle volte di tipo qualitativo più che di tipo quantitativo. In ogni caso, la linea, il filo conduttore da seguire nel nostro lavoro, così come in tutte le altre professioni mediche, sarà importante riuscire ad apprendere, ad apprendere una capacità, che è quella di valutare il paziente. Perché se io non riesco a valutare bene i problemi del paziente, cioè capire quello che io osservo in lui, da che cosa dipende, cos'è che non va, perché ho quel risultato nel movimento, se non riesco ad andare a valutare questo correttamente, è automatico che io non inquadro bene il problema e quindi non so mettere in atto gli strumenti necessari a risolvere quel problema. Se il meccanico non individua il motivo preciso per cui la vostra macchina ha quel difetto, non ve la aggiusta. Quindi noi che ci rivolgiamo ad una macchina, la macchina essere umano, molto elaborata, molto perfetta, se non andiamo a centrare i problemi, a valutarli correttamente sotto tutti i punti di vista possibili, ci può sfuggire qualcosa che non ci permette di mettere a punto completamente il piano di trattamento. Per cui ci sarà sempre nel nostro modo di lavorare una correlazione, proprio vanno di pari passo, tra la valutazione e il piano di trattamento, è quello che noi poi richiediamo al paziente. Se sbagliamo la valutazione, il piano di trattamento sarà sicuramente errato, che sarà o parziale, non coprirà completamente tutti i problemi che noi dobbiamo risolvere nel paziente. Sarà o parziale o inefficace totalmente, dipende da quanto abbiamo sbagliato nel valutarlo. Quindi noi dobbiamo conoscere perfettamente la teoria. Cosa significa la conoscenza teorica? Noi dobbiamo sapere bene le patologie neurologiche, il funzionamento del sistema nervoso, com'è, perché solo sapendo come il sistema nervoso funziona e che cosa, diciamo, di fronte ad una patologia, che cosa ci aspettiamo di vedere e cosa dobbiamo andare a cercare, soltanto se abbiamo questa teoria ben presente, noi possiamo poi fare una buona valutazione. Altrimenti non siamo in grado di fare una buona, perché non sappiamo, se io non so cosa devo andare a cercare, posso cercare bene. Magari me l'ho davanti, un segno, e non lo vedo. Quindi è fondamentale che voi studiate bene la neurologia, bene, che abbiate ben presente la neurofisiologia che avete fatto l'anno scorso, al secondo semestre, per capire questo nostro paziente neurologico perché si trova a proporci quei problemi, che si trova succubi di certi problemi quando subentra una certa lesione al sistema nervoso. È fondamentale. Quindi la conoscenza teorica, quindi, da non sottovalutare, non si può fare i praticoni. Sul periferico in alcuni casi può bastare e non sempre. Perché comunque fare i praticoni sul periferico, cioè sul traumatologico, io guarisco l'articolazione di prima, poi se non ho una visione globale, comunque ho fatto un atto riabilitativo parziale e quel paziente si rifà male subito. Perché non ho reinserito quel sedimento che ho riabilitato in una dinamicità globale. Qui non ce lo possiamo permettere proprio. Oltre alla conoscenza teorica, quindi, della neurologia, noi dobbiamo conoscere anche la teoria e la pratica delle tecniche riabilitative. In neurologia le tecniche riabilitative più utilizzate sono le facilitazioni neuromuscolari propriocettive, note come il TAVA, PNF, facilitazioni neuromuscolari propriocettive. La tecnica, che è una tecnica nata sul periferico, fu messa a punto in America da Notte Boss e poi Cabat la sistemò come tecnica ai tempi della poliomielite, quando ci furono le grosse epidemie negli anni 50 in America, poi da noi negli anni 60 di poliomielite, in cui c'era una lesione del sistema nervoso periferico, e poi vedremo le caratteristiche della lesione del sistema nervoso periferico. Ed è una tecnica che si può utilizzare sia sul paziente neurologico con lesione periferica e in alcuni casi anche centrale, ma poi insomma, vedrete con quali caratteristiche, ma sicuramente l'avete già sentito nominare sul paziente ortopedico, traumatologico. Poi c'è la tecnica di Bobat, cara Roberta Bobat, inglesi, negli anni, sempre negli anni 50, in questo modo. Hanno messo a punto questa tecnica, che è una delle tecniche più usate al mondo per il trattamento del paziente con lesione del sistema nervoso centrale, quindi emiplegia, paraplegia, e misero a punto la tecnica sia per l'adulto, perché noi ci occuperemo solo di adulto, sia per il bambino, e quindi si utilizza anche nelle paralisi cerebrali infantili, poi lo vedrete. E poi altra tecnica nata in Italia, e più che tecnica, una metodica nata in Italia e poi insomma abbastanza diffusa in Europa ormai, che è la tecnica conosciuta come ETC, esercizio terapeutico conoscitivo messo a punto dal professor Perfetti e i suoi collaboratori, famoso nei passi degli anni 70, nato come controllo sequenziale progressivo e poi evoluto in esercizio terapeutico conoscitivo dagli anni 80, perché c'è stata tutta una serie di, scoperte neurofisiologiche che hanno dato un contributo notevole al punto di questa tecnica e quindi l'hanno resa ancora più incisiva sulla patologia neurologica. Quindi fondamentalmente sono queste le tecniche che si utilizzano e anche l'ETC si può usare sia sul paziente neurologico che in patologie ortopediche. Queste tecniche, io non tratterò direttamente queste tecniche, magari vi darò alcuni, perché poi farò nel trattamento delle varie patologie, che affronteremo, io necessariamente dovrò fare riferimento a queste tecniche, per cui prima di iniziare a parlare delle singole patologie, cosa fare nelle singole patologie, vi darò alcune nozioni un pochino più specifiche, adesso ve le ho soltanto nominate per poter andare avanti nel discorso, ma poi vi dirò alcune cose fondamentali in modo che vi sappiate orientare e discriminare cosa si può fare con l'una e cosa si può fare con l'altra. Ma le approfondirete in alcuni corsi opzionali che voi farete, che faranno anche loro, tra il secondo e il terzo anno, no? Quindi TABAT e TC. Quindi siccome li tratterete in modo approfondito, quindi io nelle patologie neurologiche che tratterò io in pratica farò riferimento a queste tecniche, ma poi vi darò delle indicazioni specifiche su come affrontare la valutazione di quel paziente e alcune particolarità del trattamento, quindi, di tutte le patologie, tutte le più grosse patologie neurologiche, come vedete anche dal programma. Allora, vi dicevo, è importante che di queste tecniche che io vi ho nominato sappiate la teoria, cioè quali sono i principi che fondano queste tecniche, e la pratica, cioè la manualità, come vengono applicati questi principi nella fattispecie della patologia stessa, una volta valutato il problema. Quindi è fondamentale questo se vogliamo essere buoni riabilitatori in ambito neurologico. Poi dobbiamo saper fare una buona valutazione diagnostica e prognostica, che significa? La diagnosi la fa il neurologo, io che cosa devo valutare? Che diagnosi devo fare? Un conto è che mi arriva il paziente dal neurologo che fa, in seguito alla verifica di una serie di segni clinici, fa una diagnosi e dice ok, questo paziente è un emiplegico, questo altro paziente è una sclerosi multipla. Ma quando a me arriva con questa diagnosi, io non ci faccio niente, perché non c'è un emiplegico uguale ad un altro. Perché? Che bisogna vedere questa emiplegia se è venuta per una lesione della capsula interna, per una lesione a livello corticale, per una lesione a livello della capsula del centro semiovale, nella parte alta o nella parte bassa della circonvoluzione frontale ascendente, o sta addirittura solo, interessa soltanto il lobo parietale, e se interessa parietale e temporale, e se interessa parietale e frontale, un paziente è diverso. Avrò una clinica diversa perché a seconda di dove è localizzata la lesione, quanto è estesa, quanti neuroni ha messo fuori uso, io avrò una situazione completamente diversa. Quindi non ci faccio niente con la diagnosi del neurologo. Ho un'indicazione di che patologia ho, ma poi io devo conoscere, perché sto qui ritorno alla teoria della neurologia, dobbiamo sapere. Io devo sapere tutte le particolarità che mi posso aspettare nel valutare un paziente emiplegico, perché ripeto, non ce n'è uno uguale ad un altro, uno può essere aplasico e un altro no, e lì cambia completamente la situazione, come io posso lavorare con lui e come lui può lavorare con me, chiaro? Quindi io devo saper fare, per questo vi dico, ci deve essere anche una nostra valutazione diagnostica, cioè fare la diagnosi su quel paziente emiplegico, su quella sclerosi multipla, perché è diversa dall'altro paziente che ha la stessa diagnosi proveniente dal neurologo. Quindi io devo andare a fare una mia valutazione diagnostica. E anche prognostica, perché prognostica? Allora, prognostica all'inizio, per chi ha meno esperienza, dovrà basarsi su quelle che sono, grosso modo, le indicazioni che si leggono in letteratura, no? Su sulla prognosi di un paziente. Per cui in modo molto schematico potrete dire all'inizio, quando non avrete ancora molta esperienza, se è molto parte molto grave, la prognosi non sarà proprio bellissima. Se vedo che invece ha dei disturbi modesti, posso dire ha una prognosi abbastanza buona. Poi nel tempo, con l'esperienza, sarete in grado di valutare anche segno per segno che prognosi posso dare a quel paziente, sempre con le dovute cautele, perché poi l'evoluzione è presumibile, diciamo, al 70-80%, c'è sempre una parte, no, di, che è intollerabile, che è dovuta alle condizioni generali del paziente. Io ho due pazienti con la stessa lesione a livello del sistema nervoso centrale, ammesso che sia possibile averne due identici, non è detto che evolvono tutti e due nello stesso modo. Se un paziente ha un'età di 60 anni, un altro ha 50 anni, uno non ha problemi respiratori e l'altro è già in partenza una persona con problemi di insufficienza respiratoria cronica, perché è un bronchitico cronico che fa tutta la sua vita, ossigena meno bene quello che ha la bronchite cronica, e quindi automaticamente, ossigenando meno bene a livello cerebrale, ha minore possibilità di recuperare dal punto di vista, no? Di irrorazione sanguigna e di apporto di ossigeno alle cellule nervose. Chiaro? Quindi io devo fare una prognosi, devo essere in grado di valutare, di fare una diagnosi e di fare una prognosi di massima. Ma perché mi serve fare una prognosi di massima? Mi serve per aggiustare il tiro rispetto alla mia richiesta. Se io ho di fronte un paziente che è molto grave, che so per una serie di altri dati che mi vengono dati, tipo, come vi dicevo, parametri vitali non eccessivamente in buon ordine, una situazione familiare scadente che incide negativamente sul suo profilo psicologico, eccetera, io devo adeguare la mia richiesta a quello che il paziente mi può dare data la sua situazione. Chiaro? Quindi io, in base alla prognosi che mi faccio, grosso modo, devo anche aggiustare il tiro sulla richiesta che mi faccio. E se io chiedo troppo poco, sto mantenendo non utilizzata tutta una serie di potenzialità che lui dovrebbe tirar fuori. Se invece chiedo troppo, io non vado da nessuna parte, perché il paziente non è in grado di seguirmi su quelle richieste. Quindi mi darà alla mia richiesta mi darà una risposta parziale, scorretta, perché magari è troppo elevata per il suo livello, è troppo ambiziosa e lui si deprime perché non riesce a starmi dietro. Quindi io devo valutare, fare una buona diagnosi e fare una buona valutazione prognostica proprio per proprio calibrare su quel paziente anche il tipo di richiesta, non solo rispetto ai problemi che lui pone, ma anche rispetto alla prospettiva che ha di fronte, no? Valutazione psicofisica, anche questa è importante, che un elemento da tenere presente, perché se è un paziente che ha dei problemi psicologici, ovviamente dobbiamo un pochino tenerle presente. Se non ha buone capacità attentive, se è molto depresso, se è molto ansioso, tutto questo incide sul suo grado di partecipazione, sulla sua motivazione a lavorare con noi, e quindi l'ultima analisi è sul risultato. Valutare l'ambiente, quello che vediamo anche più nel particolare, in che ambiente vive questo paziente? Un paziente che lo incoraggia, un paziente che non lo incoraggia? Bisogna vedere questi elementi e impostare un piano di trattamento che tenga conto quindi di tutto quanto ho detto fino ad ora. E ovviamente non è che posso, se lui ha un problema psicologico importante, posso occuparmene io che sono un fisioterapista. Magari vedere se la cosa è di minima importanza, cioè voglio dire comunque arginabile, magari una depressione, una reazione psicologica reattiva alla malattia che ha appena contratto, è fisiologico che ci sia, ma se questa depressione, se questa ansia non comincia a quietarsi dopo un po' e a ritornare un pochino, no, nei parametri di diventa un elemento di disturbo sul trattamento e quindi viene fuori la necessità di avere un'equipe riabilitativa che ci affianca, cioè far parte dell'equipe riabilitativa nella quale uno psicologo lo supporti dal punto di vista psicologico, perché altrimenti veramente perdiamo tempo, perché l'elemento psicologico è fondamentale per poter avere una buona interazione e produrre un buon lavoro, o di un assistente sociale nel caso l'ambiente remi contro al lavoro che noi stiamo facendo, perché il paziente non si sente supportato e vi assicuro che ci sono molti casi, no? Soprattutto anziani, abbandonati, diventa un problema importante. Oppure soggetti giovani che vengono abbandonati dai coniugi, no? Quando incontrano una malattia importante. Quindi questo per dirvi che spesso noi ci troveremo come fisioterapisti in ambito neuroriabilitatori a lavorare in equipa con altre figure, fra cui anche l'ogopedista, perché ci sono dei pazienti che hanno bisogno anche del supporto logopedico in caso abbiano problemi tipo afasico di tipo cognitivo. Allora, quale sarà il nostro strumento? Il nostro strumento è l'utilizzazione del movimento. Del movimento. Come facciamo noi terapia? Attraverso il movimento, quindi la kinesiterapia sarà quello che noi poi effettueremo. Terapia attraverso il movimento. E cominciamo a pensare alla kinesiterapia in ambito neurologico in un modo un pochino più complesso rispetto a dire fai questa contrazione, come abbiamo fatto in un ambito ortopedico, e lui fa quella contrazione in quel modo, nell'ambito di corrente articolare e basta. Abituiamoci a pensare al movimento come risultato, quindi come risposta, diciamo, del cervello ad una serie di informazioni che deve prendere preventivamente. Informazioni che riguardano l'esterno, che riguardano l'interno del corpo del paziente, perché soltanto se ci sono queste informazioni preventive prese attraverso i canali afferenziali, il cervello è in grado di elaborare una risposta che sia adeguata al contesto esterno e rispetto alla persona. Quindi ogni volta che noi facciamo una proposta di movimento, di terapia al paziente neurologico, dobbiamo sempre considerare che siccome stiamo lavorando sul recupero del sistema nervoso, dobbiamo sapere che il sistema nervoso funziona così. Cioè, un canale in entrata, tutte le afferenze superficiali e profonde che servono a dare informazioni al cervello affinché elabori una risposta, mette insieme tutte queste informazioni e rispetto ad un fine che si vuole raggiungere, mette insieme una risposta che attraverso la via efferente, che è la via efferente motoria, quella piramidale, si avrà una risposta che non sarà soltanto, sarà primitivamente interessata alla via piramidale perché è la via motoria per eccellenza, ma la risposta, proprio perché è una risposta complessa, non è solo il risultato di una serie di informazioni che prendono quella via e basta, ma su quella via percorreranno, scenderanno anche altri impulsi che sono quelli provenienti ad esempio dal cervelletto, dagli occhi, dai centri vestibolari, quindi è il risultato di tutta una serie di informazioni. Ok? Perché vi dico serve che prenda informazione dall'esterno e sul proprio corpo? Perché è diverso che io decida di fare un certo movimento, anche soltanto la rotazione del capo, se sto in piedi o se sto seduta. Perché devo mettere in atto delle reazioni posturali di raddrizzamento diverse, no? Quindi vedete, il movimento è lo stesso, devo ruotare il capo, devo guardare in alto. Guardare in alto è ancora più diciamo significativo come esempio, no? Devo guardare in alto, mi sono seduta, io devo solo raddrizzare il tronco e tutto là. Non devo mettere in atto particolari meccanismi di equilibrio che sono stabili sul piano d'appoggio, devo tutto più effettuare un raddrizzamento del tronco per poter adeguarmi alla posteriorizzazione del cavo. Se sono in piedi, devo mettere in atto tutta una serie di meccanismi dell'equilibrio, di raddrizzamento, di aumento del tono, per poter mantenere la posizione stabile in questa nuova richiesta, che non metto in atto in quell'altro caso. Allora, vedete che il corpo, per poter fare questo semplice movimento, che è sempre quello, però deve prendere delle informazioni diverse, quindi informazioni dall'esterno, posso una sedia stabile, non stabile, cosa devo andare a guardare, e dal corpo stesso, perché si trova in una posizione di partenza diversa. No? È diverso che io prenda un bicchiere partendo da questa posizione, o partendo da questa, o partendo da questa. Quindi informazioni sul proprio corpo e informazioni sull'esterno. La forza che io impiego nell'andare a prendere un bicchiere, sapendo se che il bicchiere è di vetro oppure che il bicchiere è di plastica, è la stessa. Non può essere. Quindi ho preso un'informazione visiva, secondo me quel bicchiere è di plastica o è di vetro, e preparo un tipo di contrazione che è adeguata a quello che è la mia aspettativa. È una presa di informazione visiva che a questo punto si mette insieme alle altre informazioni prese sul corpo e prese dall'esterno, cioè quanto dista quel bicchiere, di quanto quindi devo estendere il gomito per dare profondità al mio gesto. Vedete, informazioni esterne, interne, di memoria, visive e così via. È solo dall'analisi di tutte queste informazioni che il sistema nervoso è in grado di mandare fuori una risposta, un output che è adeguato al contesto, corretto, per cui la risposta motoria è quella giusta. Nel momento in cui ho una lesione del sistema nervoso, ci possono essere degli ostacoli in una di queste vie che portano informazioni o che portano fuori la risposta motoria. E quindi devo andare a vedere dov'è che c'è questo ostacolo, e se lì c'è l'ostacolo devo orientarmi sul risolvere quell'ostacolo e cercare di mettere di nuovo in armonia tutti i sistemi afferenti di presa di informazione per poter avere poi una risposta motoria che è quella corretta. Quindi il modo di ragionare in neuroriabilitazione dovrà essere necessariamente questo, e quindi vedete che è un pochino più complessa. E questo significa risposta del cervello stimolante dall'esterno all'interno. Altro preambolo indispensabile, poi vi faccio riposare un pochino, è questo, è questa considerazione, che fino adesso siamo stati abituati in ambito ortopedico a lavorare sul movimento considerandolo soprattutto dal punto di vista esecutivo, meccanico, come abbiamo detto. Nella riabilitazione neurologica noi dobbiamo quindi necessariamente, proprio perché entrano in campo tutte queste informazioni che vanno organizzate, noi dobbiamo vedere il movimento anche sotto l'aspetto organizzativo, che già un po' ve ne ho parlato, quindi non mi dilungo, e sotto l'aspetto motivazionale. Perché sotto l'aspetto motivazionale? Perché è diverso l'elaborazione, l'organizzazione di tutte queste informazioni è diversa a seconda del motivo per cui il soggetto si muove. Sicuramente vi hanno parlato in anatomia e poi anche in fisiologia del sistema nervoso, dell'homunculus motorio, dell'homunculus sensitivo. No? Allora, fermo restando per l'informazione, cioè che in quella particolare zona del lobo frontale e del lobo centrale ci sono questi homunculus, ci sono sicuramente. Cos'è venuto fuori negli anni 80? È venuto fuori che in realtà non esiste una sola rappresentazione dell'uomo, no? della parte dell'essere umano su queste cortecce parietali e frontali, ma esistono più rappresentazioni che vengono attivate quindi come zone di neuroni a seconda dello scopo per il quale il soggetto si muove. Voglio dire, se io vado a fare questo movimento sulla cattedra, lo posso fare per più motivi, perché sto togliendo della polvere, perché voglio sentire se è liscio, perché voglio sentire quanto è duro e se è liscio. Sono due informazioni diverse che io devo andare a prendere. e si è visto che facendo fare un gesto lo stesso a un soggetto, dandogli una motivazione diversa, si attivavano diverse zone del sistema nervoso. Quindi zone vicine a livello dell'omunculus sensitivo e dell'omunculus motorio, ma non le stesse a seconda della finalità per la quale il paziente si muoveva. Perché se io vado lì a sentire soltanto se è liscio, avrò un certo grado, cioè, faccio per quell'informazione, avrò un certo grado di sostegno della mano rispetto al piano. Se vado a sentire il futuro, premerò un po' di più magari. Quindi ho comunque, anche se fenomenicamente, quindi i muscoli sono quelli che io vado ad attivare, sono sempre quelli, però le zone che io attivo sono diverse. Poi alla fine confluisce tutto sugli stessi motoneuroni che fanno muovere la mano in quel modo, il braccio in quel modo, il gomito in quel modo, eccetera. Però le zone attivate da cui è partita tutta l'elaborazione sono diverse. E allora, se io ho davanti un paziente che non riesce a fare un certo movimento, ha senso che io lo faccia fare sempre nello stesso modo senza dargli una indicazione sul perché lo deve fare? Lui muove, perché muove, quindi comunque il suo apparato esecutore alla fine si muove, però non posso dire di aver attivato tutte le zone che avrei potuto attivare e che quindi io comunque stimolo il potenziale residuo che devo cercare di recuperare, no? Nel mio atto riabilitativo. Lo stimolo di più se gli do più motivazione, quindi fa sempre la stessa cosa, ma lo farà in modo poi alla fine, in qualche modo impercettibilmente diverso e attivando delle zone diverse. Quindi io comunque sto lavorando di più sul recupero della funzione cerebrale. Chiaro? Quindi è fondamentale dare sempre una motivazione alla richiesta che noi andiamo a fare al paziente. Questo è vero per la spiegazione che vi ho detto, cioè perché vado a stimolare delle zone del sistema nervoso diverse, e quindi più motivazioni do per fare quel gesto e più zone attiverò, ma è anche vero perché se io do una motivazione al paziente, lui è più coinvolto nel piano di trattamento, vede finalizzato il suo sforzo e il suo impegno, e voi sapete benissimo che se vi piace una materia, la studiate volentieri dentro in testa prima. Se una cosa non vi piace dovete prendere 100 volte di più e il giorno dopo dovete dimenticarla. Allora, se io do al paziente una motivazione per lavorare, perché vede il fine ultimo, cioè io dico al paziente fai 100 volte così, e quello non si sta. Se io dico di fare quella cosa per andarsi a toccare l'orecchio, per andarsi a toccare l'altro orecchio, per andarsi a toccare la spalla, più o meno la stessa cosa, cambia un po' la direzione a livello della spalla, poi fretta il gomito. E comunque no? Però vedo almeno una finalità che è vicina a quello che è il suo desiderio ultimo, che è quello di riprendere certe funzioni. Quindi più riesco a dare alle richieste motorie, a incanalare queste richieste motorie che io gli faccio in una funzione complessa, di cui magari questo rappresenta solo un pezzo, ma dicendolo al paziente, facendolo capire, lui sarà sicuramente più motivato a farlo, e se è una persona più motivata, è sensibile. Proprio i legami per fissare in memoria quel concetto motorio, quella specificazione motoria, è sicuramente più forte, è più attento, sta attento più a lungo, no? Il concetto è chiaro a tutti voi, è ovvio. Vediamo che adesso si andrà qua. Fatto neanche un'ora, no. Allora, scusa, siccome gli aspetti personali dell'agire, no, sono comunque influenzati da alcuni, diciamo, aspetti tecnologici che poi attengono al singolo individuo, quindi esperienza, memoria, eccetera, quindi sono strettamente poi alla fine personali, quindi comunque è impossibile anche fare una generalizzazione dal punto di vista, diciamo, dell'omologazione del rapporto tra azione e area attivata a livello riabilitativo tra persone differenti, ovviamente. Quindi sì, è difficile però che possa essere così specifico, vedete, quando io ho un paziente, diciamo, il legio è quello che forse tutti più o meno hanno visto in giro, no? O a tirocinio, o già se sennò stadio, perché sennò potrebbe una risonanza magnetica funzionale a ogni singola persona e capire quali sono i singoli meccanismi, sì. Perché è troppo complicato, insomma. fantastico. È possibile questo, però una cosa certe modalità di agire sono comuni alla totalità del cammino. Vedete, il cammino è organizzato in tutti i modi. Le fasi sono quelle, sappiamo che quando il pallone approccia il terreno, il ginocchio sta in un certo modo, la in un certo modo, il bacino in un certo modo, il capo si attiene in un certo modo, e così via. Quindi noi sappiamo queste cose, sappiamo anche la variante del cammino, quale potrà essere, un cammino in discesa, un cammino in salita, un cammino su un terreno morbido, un cammino su un terreno molto duro, no? Queste differenze. Il paziente il cammino forse, cioè questo come un esempio di base, perché poi il cammino c'è poco da specificare, il cammino è interessante per tutti i pazienti, perché è l'inizio dell'autonomia. Ma se andiamo anche soltanto all'arco superiore, io più opportunità do, con più informazioni possibili, con più motivazioni possibili, e più sono, ho più certezza quantomeno, di poter attivare più zone a livello del sistema di concentrati. La mia richiesta dipenderà anche dal contesto del fuori lavoro, perché se io sono in un ambiente dove non ho ausili di nessun genere, sono un po' più limitato, allora mi devo organizzare. E anche dalla richiesta funzionale del paziente. Va tutto adeguato, certo. Un paziente, è una cosa che avrei detto dopo, ma un paziente ad esempio anche il grado di scolarità, il lavoro che quel paziente ha svolto fino ad allora, sono importanti per aggiustare il tiro sul tipo di richiesta, sull'organizzazione diciamo del trattamento. Perché l'aspettativa e la richiesta di un paziente che faceva l'orologiaio è diverso dal paziente che si staccava la terra, no? Quindi io andrò anche a organizzare il mio adattamento in base anche tanto al punto di partenza del paziente, perché non posso chiedergli cose che non sono ancora la sua portata. Fermo restando che valuto dal punto partito, poi cercherò di indirizzare le richieste in ambiti che più interessano a quel paziente, perché poi magari li riutilizzerà. No, se un paziente di analfabeta, che io mi metto lì a farlo scrivere, a fare le linee, semmai gli dico una forchetta in mano e cerco di insegnargli come manovrare la forchetta. No, quindi in questo senso, cioè non posso andare sul singolo a vedere quali parti attivo. E poi intanto do tutte le informazioni e tutte le motivazioni possibili, interessanti per lui e possibili per me nel contesto nel quale lavoro. Appunto, se sto a fare una terapia domiciliare, dove ho una casa a disposizione dove poter prendere stimoli e farlo lavorare, un conto in un ambiente dove no, ho pochi ausili, un ambiente di ricovero, no, o se ne ho tanti, devo vedere le situazioni e anche un po' organizzare il contesto del farlo lavorare. Chiaro? Anche però la vita, come diceva lei, il lavoro, la vita, a volte prima con incontro il paziente ci può essere d'aiuto per capire quali aree dello scorso sono più sviluppate poi. Perché se. Però vedete, sicuramente vi hanno parlato della plasticità, no? Sì. No. Questa domanda che sicuramente presuppone la conoscenza della plasticità, del concetto di plasticità. No, chi ha detto? Un momento di vuoto. Vabbè, insomma, per le tagliare ce l'abbiamo fatto. In realtà si è visto che pochi tessuti del nostro corpo non sono plastici, cioè sono quelli con i quali nasciamo così andiamo a morire. Di certo il neurone è quello con cui nasciamo, andiamo a morire il neurone, ma non dalle connessioni neuritiche, nel senso noi abbiamo un patrimonio di neuroni, purtroppo il neurone è quello, se muore non si rigenera, ciò che si rigenera, e questo lo sapete per forza, è semmai il sole, quindi l'importante è che non vada persa la cellula primitiva, ma la sole, i dendriti che servono a prendere contatto con i neuroni vicini, non hanno delle connessioni stabili per tutta la nostra vita. connessioni. E come variano queste connessioni? In base all'esperienza. Se si tappa l'occhio ad un soggetto, a parte che va in atrofia il nervo perché non è più utilizzato, perché c'è una stretta correlazione tra funzione e struttura, no? Chiaro? Ma bene, se si va a fare poi una risonanza funzionale, una PET, si andrà a vedere che quando si va a cioè si vede poi visualizzato il fatto che la zona della cistura calcarina, no? Della, dove c'è tutta il diporto della corteccia, diciamo la corteccia visiva, ha modificato la sua struttura, perché relativamente all'occhio tappato non c'è più attivazione e parte di quello spazio è preso dall'altro. Se un paziente non muove un arto inferiore completamente, tipo un amputato, gli manca ormai, no, una certa parte del non deputare i movimenti dell'alluce e delle dita, quello spazio non rimane morto ed è un buco nero, ma viene preso da quello spazio viene occupato dai neuroni vicini che si organizzano in modo diverso. Quindi è questa la plasticità. Le trabecole ossee del resto non sono quelle sempre, no, come quali nasciamo, cambiano a seconda di come noi camminiamo. Se abbiamo un vizio che portiamo di cammino, che portiamo avanti nel tempo, se potessimo andare poi a rivedere la disposizione delle trabecole ossee prima e dopo questa variante del cammino, vedremo che sono disposte diversamente, perché le linee di forza sono tali per cui anche le trabecole ossee si modificano, è chiaro? La plasticità è quindi quel fenomeno che è un nostro grosso amico, Perché? Perché se fosse tutto così fisso, noi che cosa andiamo a riabilitare? Non abbiamo nessuna possibilità di modificare qualcosa, cioè il buco nero quindi finisce. E invece no, noi possiamo, attraverso la riabilitazione, quindi stimolando le cellule superstiti a lavorare e a prendere informazioni intorno, a prendere connessioni intorno, quindi a stabilire una nuova rete neuronale con la quale lavorare. Chiaro? Ed è per questo che più stimolazioni do, più informazioni do, più motivazioni, più varianti do e più rapporti dovranno essere presi e più io stimolerò questa plasticità a riorganizzarsi sfruttando il più possibile le potenzialità residue del paziente. Chiaro? Proposta minima, risultato minimo. Proposta ampia, variegata, articolata, eccetera, risultati migliori. Ok? Quindi questa è un'equazione assoluta. Chiaro? Allora, vabbè, facciamo una piccola pausa, guardate, soltanto quanto ora. Che si mettiamo per tagliare i morti alle 5 e se c'è aiuto riuscire a staccare solo adesso. Beh, io sono un po' ricorso, parliamo nativo di noi, non tutti quel lavoro, abbiamo un problema, cioè se non può venire la produzione, tutto quanto, abbiamo un problema se alcune volte qualche anno abbiamo un problema prima. Tutto, ora la felice, mi ti sei? Di Marianna, non c'è sta un foglio a parte. A me non hanno mandato. No, noi siamo di Tivoli e solamente con occhi a Tivoli viveranno. Cioè, noi dobbiamo riseguire le azioni. Cioè, le ore che abbiamo. Devono frequentare il secondo anno. Tutto il secondo anno devono frequentare. No, sono tutti anni, insomma, solamente che purtroppo gli articoli adesso chiude. Lo so. Quindi lui ha detto andate, dovete per forza andare per vedere. Fai vedere anche le altre. Sì, siamo due oggi. Allora, aspetta, tu sei di Mario Anna, perché di solito quando siamo un gruppo con tutti noi, insomma, le lezioni, cioè le ore. sì, perché le ore ce l'abbiamo, però è giusto anche insomma rivedere insomma i nuovi professori, ecco, per questo siamo venuti. L'altra che è Stefania, che è uscita, mi sa, vabbè, con la chiamo. Voi eravate qui dall'inizio? Oggi? Oggi. Io sono arrivata più tardi, poco mezz'oretta più tardi dall'inizio. È un lavoro di tipo psicomotorio con una valenza psicomotoria molto importante, perché volevo vedere prima di entrare nelle patologie proprio quali valenze abbiamo nella mobilizzazione passiva e come va fatta perché abbia questa validità. Allora, intanto da un punto di vista meccanico, giustamente, serve a mantenere l'articolarità libera, per cui il paziente che non potrà muoversi per un po' di tempo, perché ci vuole un po' di tempo, perché si deve testare le cose nuove e si possa muovere, io nel frattempo devo mantenere l'apparato esecutore libero, perché se io non mantengo le lunghezze muscolari, l'articolarità libera attraverso la mobilizzazione passiva, quando anche poi ci arriverà finalmente questo output attraverso la via motoria, l'apparato esecutore non sarà in grado di effettuare al meglio il movimento, perché c'è un impedimento a quel punto meccanico. Quindi devo mantenere bene le articolazioni e i muscoli. Può bastarmi per un viscidide andare a letto il paziente e farmi così presso estinzione? Forse per l'articolarità sì, per il muscolo? Perché? Che non c'è la resistenza. Sei passiva? È un movimento passivo. Sto mantenendo la lunghezza articolare? No. La lunghezza articolare sì, la lunghezza muscolare non completa? Perché? Perché è biarticolare. Si può quantomeno osservare anche una estensione di valore. Un tricipite, io lo allungo completamente così, no, bisogna andare lì e farglielo aiutare il punto. Quindi io non devo sempre nella mobilizzazione passiva considerare il muscolo, il suo decorso, che sia un muscolo di buon articolare, perché? Perché c'è una legge semplicissima che dice che un muscolo che mantiene la sua totale lunghezza è in grado di esprimere la sua completamente tutta la forza. Se un muscolo è accorciato, la sua capacità di contrazione è ridotta, perché parte da una situazione già di accorciamento. Quindi se io non mantengo la lunghezza per tutta la lunghezza questo muscolo, poi non mi darà il massimo nel momento in cui sarà innervato o comunque sarà in grado di riprendere ancora a contrarsi. Chiaro? Quindi osservare intanto questa regola. Poi, perché la mobilizzazione passiva abbia una validità anche nel mantenimento dello schema corporeo, bisogna che questa mobilizzazione non sia fine a se stessa, per cui muovo un distretto per forza e la direzione di questo spostamento della scheletrica nello spazio sia sempre la stessa. Perché abbia questa validità di mantenimento dello schema corporeo bisogna che io coinvolga, cioè faccia, imprima a questo atto che sposto una direzione che sia anche rivolta al soggetto stesso. Quindi prendo la mano e dico allora andiamo a toccare la testa, andiamo a toccare la spalla sinistra, andiamo a toccare la spalla destra. Questa verbalizzazione intanto serve a richiamare l'attenzione su quello che si sta facendo, il fatto che il suo corpo, sebbene lui magari neanche lo sente perché ha un disturbo sensitivo, non sa neanche dove è l'alto, glielo porto davanti agli occhi. E allora io sto mobilizzando anche bene il tricipite se vado a fargli toccare l'orecchio opposto, no? E così via. Ma intanto sto lavorando sul più versante, perché gli faccio riprendere conoscenza del fatto che ha un atto, perché a volte neanche lo sento, non è vero. Quindi glielo riporto nel campo visivo, richiamo l'attenzione visiva, mi faccio toccare parti del corpo e quindi continuo a mantenere l'organizzazione delle parti del corpo in una relazione spaziale fra di loro. Quindi non ha senso andare lì e mobilizzare così, no? Nessun senso. Ha un senso articolare, muscolare se sono brava, ma finisce là. Non ha nulla di psicomotorio questa mobilizzazione passiva, quindi non ha una valenza rieducativa, ha solo di mantenimento dell'articolo di tratto. Quindi se voglio che sia un atto psicomotorio, devo dare delle traiettorie diverse, coinvolgere attentivamente il paziente, dirigere questa mobilizzazione sul corpo del paziente denominando le parti e sull'esterno. Allora, muovo l'atto, io dobbiamo toccare varie parti del tuo corpo e poi andiamo a toccare il comodino accanto, vieni a toccare la mia spalla, poi lui non lo faccio io. Ma intanto rivolgo l'attenzione all'esterno, destro, sinistro, andiamo a indicare la porta, andiamo a indicare la finestra, andiamo a indicare il lampadario, vieni a toccare la mia tasca. Quindi cominciamo a far sì che questa mobilizzazione nel contempo continui a mantenere la relazione fra il suo corpo, all'interno del suo corpo e con l'esterno, del suo corpo rispetto all'esterno. Quindi mai stare lì, parlare d'altro con un altro vicino e mobilizzarlo come se fosse un fantoccio. Lo so che spesso lo vedete fare, ma questo non è, io vi dico che non è corretto. Ok? Quindi se volete che quello già sia un fatto attivo, non è più passivo, vi rendete conto che non è una modalità passiva, non si può chiamare. Allora, già è passiva perché lui non si muove, ma non è da un punto di vista riabilitativo un atto passivo. È un atto attivo perché sto attivando tutta una serie di informazioni dal corpo e dal corpo verso l'esterno. Quindi questo per mantenere lo schema corporeo. Poi stimolare i propriocettori, già il contatto, la pressione, tanto più l'arto è pesante, tanto più dovrò sostenere con pressione. E poi nell'ambito della mobilizzazione passiva posso anche dare delle ulteriori informazioni propriocettive più importanti. Come ad esempio posso, oltre che spostargli l'arto nelle varie direzioni, andiamo a pettinarci, andiamo a toccarci la spalla e così via, io posso però anche ogni tanto dare delle informazioni più forti, un'approssimazione a livello articolare, delle trazioni, perché tutte queste sollecitazioni a livello articolare in coattazione, in stiramento, sono degli stimoli potentissimi o per la tenuta nel caso dell'approssimazione o per la contrazione nel caso della trazione, contrazione isotonica nel caso della trazione. Ad esempio Capat fa proprio dell'approssimazione e della trazione gli stimoli proprio iniziali di partenza per ottenere o stabilità, quindi contrazione isometrica, o contrazione muscolare, quindi contrazione isotonica. Quindi dare fin da ora queste stimolazioni suppletive oltre a tutte quelle che derivano dagli allungamenti muscolari, dagli allungamenti dei tendini, delle gambe, ogni volta che dobbiamo. Poi ovviamente la mobilizzazione passiva ha anche una valenza internistica. Nel momento in cui il paziente sta a lungo fermo, se nessuno lo va a mobilizzare, si ha una stasi linfatica venosa che porta a delle complicanze dal punto di vista circolatorio. La stasi, come ogni altra stasi di liquidi, si può complicare in situazioni di tipo batterico. Stasi a livello dei polmoni porta alla bronchite, alla polmonite, stasi urinaria porta alla cistite, una stasi di venosa a livello delle vene abbiamo le trombosi, tromboflebiti, linfatiche, anche se possono avere complicazioni di questo genere. Quindi mobilizzare l'arto significa effettuare una pompa muscolare non efficacissima come potrebbe essere quella del movimento attivo, ma sicuramente significa far scorrere le fasce e quindi comunque drenare, tanto più se si effettua in modo con gli arti in posizione declive, no? In posizione antigravitaria, per cui si favorisce il deflusso. Quindi questa particolarità della mobilizzazione passiva ci tenevo a dirvela, perché non snobbiate questa modalità di lavoro, grossa importanza, purché fatta con questa attenzione, con queste finalità. Chiaro? Tra l'altro vi dico, la mobilizzazione passiva, oltre che nelle fasi attive in cui, nelle fasi acute, scusate, in cui ancora il paziente non ha movimenti attivi, in realtà va fatta nel paziente neurologico che ha una riabilitazione lunga, può durare mesi, anche anni, va fatta sempre. Che se il recupero è parziale, è lento, impiega mesi a recuperare la concretezza del movimento, non ci possiamo, dice, beh, tanto ormai comincia a muoversi, fin qua ci arriva, non braccio, sta bene, si muove. Tutto quello che manca lo devo comunque continuare a fare io. Quindi nel piano di trattamento, la mobilizzazione passiva sarà incluso, sarà inclusa anche quando il paziente la comincia a muovere, perché se lui non riesce a muoversi ancora utilizzando il massimo della potenzialità di quell'articolazione dei miei muscoli, io lo devo fare in forza, altrimenti rischia di comunque di andare incontro alla riduzione delle sue possibilità articolari e muscolari, chiaro? Quindi fino a che lui non completa il suo recupero, io comunque anche solo qualche minuto, ma un po' di mobilizzazione passiva fatta correttamente, è il caso di lei includere il piano dell'architetto, quindi valutare sempre questa possibilità. Ovviamente nella chinesi tradizionale, cioè semplice, qui io faccio fare solo delle contrazioni isometriche, isotoniche, degli spostamenti così poco finalizzati, quello che io posso ottenere come massimo del mio risultato sarà un efforto muscolare, perché faccio fare tutti i movimenti con resistenza e via, e mantenere l'escursione articolare, ma non è un movimento che ha una dignità, diciamo, no, funzionale. Non è detto che poi quella forza che recupera la utilizza al meglio, perché è un atto parziale, un atto segmentario. Tuttavia questo tipo di kinesiterapia è sempre stata utilizzata un po' in tutti i campi, non solo in quello ortopedico e traumatologico, ma anche in quello neurologico, purtroppo in alcuni ambienti in cui c'è un po' di pigrizia a studiare, ad acquisire tecniche un pochino più evolute, si continua a fare ancora cose molto semplici e tutto sommato riduttive delle potenzialità che il paziente può ancora permettersi di sviluppare. Invece quelle di cui noi tratteremo saranno le tecniche di fascinazione muscolare, le quali non sono basate soltanto su leggi fisico-matematiche, ma anche su principi neurofisiologici. Quali sono i principi neurofisiologici? Ad esempio, l'innervazione reciproca. Nelle mie richieste io terrò conto del fatto che quando faccio contrarre un muscolo, diciamo agonista, ci sarà un muscolo antagonista che si contrae, che un muscolo dopo che si è contratto massimamente andrà incontro ad un'inibizione per cui massimamente si rilascia, quindi io farò riferimento a tutte queste caratteristiche, diciamo, neurofisiologiche per fare le richieste in un certo modo. Proprio le tecniche, ma tutto il caro, sono anche un po' la Slovak, utilizzano molto questi aspetti neurofisiologici. Oltre ad attività segmentari, e saranno pochissime le attività segmentari che si richiedono nel trattamento riabilitativo e di neuromotorio, soprattutto ci sarà sempre una richiesta di tipo piuttosto globale, quindi si farà riferimento a posture, a movimenti, e sempre, per tornare al discorso iniziale, si farà riferimento cioè dovremo avere cura di dare le informazioni necessarie al paziente per elaborare la risposta motoria. Quindi noi in pratica con questo tipo di tecnica, con questo tipo di tecniche neuromuscolari, potremo avere uno scopo ben diverso dalla semplice rinforzo muscolare, ma potremo meglio evocare tutto il potenziale motorio residuo non intaccato dalla lesione, ma che può riorganizzarsi grazie alla plasticità di cui parlavamo, per poter di nuovo permettere al soggetto di riacquisire delle funzioni che lo facciano realizzare innanzitutto come soggetto e di potersi poi riadattare al mondo, no? Inoltre, altro scopo che ci permette perseguire queste tecniche è, oltre al rinforzo muscolare, le qualità del movimento. che avevo detto che bisogna ragionare un orologio più sulla qualità che sulla quantità, perché se andate a vedere un movimento non è soltanto espressione di una forza, di uno spostamento nello spazio, ma ha delle capacità, ha delle qualità di coordinazione, precisione, rapidità, destrezza, perché non mi basta che abbia la forza. Il muscolo forte non è detto che sia in grado di lavorare in modo rapido, coordinato con gli altri muscoli con i quali dovrebbe lavorare con un determinato gesto. Per cui in riabilitazione del neuromotore dobbiamo finalizzare anche a queste capacità. Non è completato il recupero se mi fermo solo alla forza. È completo solo quando io perseguo anche questi altri obiettivi. Allora, detto queste generalità, per entrare un attimo nel tipo di ragionamento che bisogna fare, cominciamo a vedere la valutazione del paziente neurologico. Allora, vi dicevo, la valutazione è importantissima. È importantissima perché se non valutiamo bene non possiamo fare un compiuto trattamento. E solitamente siamo abituati a pensare alla valutazione come qualcosa che noi facciamo nel momento in cui conosciamo il paziente. Ovviamente è così. Ma la nostra valutazione in realtà non si deve fare soltanto all'inizio del periodo di trattamento del paziente. La valutazione deve essere fatta anche durante il trattamento e alla fine. Alla fine, ovviamente, perché alla fine? Per vedere che risultati abbiamo ottenuto, quindi non mi dilungo su questo. Ma perché durante? Per vedere i risultati. Perché io non è pensabile che io parto con un piano, faccio una valutazione, se io che i problemi sono quelli, di conseguenza mi faccio punto per punto tutti, diciamo, tutto il piano di trattamento. E poi vado così per due mesi senza cambiare il metodo, si può modificare qualcosa, tanto, vedere come evolve il paziente. Però la cosa che mi interessava dire era che questa valutazione durante non necessariamente deve coincidere con le valutazioni intermedie che anche il medico programma, perché se un paziente non è qui nel numerato di due mesi, non è che lo vede all'inizio, lo vede alla fine e finito così. Ovviamente si programmano una serie di controlli che possono essere fatti ogni 15 giorni, ogni mese, a metà del periodo, dipende da come è organizzata la struttura, da come è. In realtà il durante, il nostro durante, significa come si ama. Allora, nel momento in cui io chiedo a un paziente di un certo movimento, un certo gesto, con tutte le caratteristiche che abbiamo detto, finalizzato, eccetera, eccetera. Se io guardo da un'altra parte, lui lo ripete 100 volte e mi finisce. Ma se io osservo esattamente come lo stai seguendo, cosa sto facendo? Lo sto valutando. Quindi, di fatto, non è solo la valutazione deve essere intesa soltanto come un fatto istituzionale e a tempo preordinato. Nella nostra seduta riabilitativa, la valutazione è in ogni momento. Di fatto è inscindibile il momento di valutazione da quello di tutto il trattamento. Perché quando esegue quello che gli abbiamo richiesto, noi diciamo, ho fatto bene, ho fatto male. Cos'è che andava bene? Cos'è che andava male? E non mi fermo a dire se sono, insomma, se voglio farlo progredire e se voglio anche modificare il piano di trattamento in modo valido, e non dire hai fatto male, per cui il poverino è mortificato. Guarda, non va bene perché questa cosa doveva essere fatta così, questo atto dovevi posizionarti così, dovevi spostare il carico in questo modo, eccetera. Quando lo correggo in questo modo, io che cosa faccio? Ho fatto una valutazione, sono andata a vedere nella valutazione le cause per cui non ha fatto bene e ho immediatamente modificato la proposta. Perché la causa potrebbe essere una mia cattiva richiesta, non ho dato sufficienti specificazioni, o da una sua cattiva ricezione. Quindi devo andare a vedere se ho sbagliato io o dato l'indicazione. non mi sono espressa bene, prima di tutto devo analizzare me, come che cosa ho detto. Perché in base a come lui risponde io capisco se sono stata poco efficace nella consegna, o se invece ad esempio ho richiesto troppo rispetto alla sua possibilità, o se lui non mi ha proprio capito. E allora comunque devo ripetere dando specificazione o dandogli un aiuto. Quindi vedete che io ogni volta ho valutato, ma non è una valutazione solo fatto bene e fatto male. Come all'inizio è una valutazione diagnostica, cioè devo andare a valutare il perché lui ha agito in quel modo. Capire il perché, e se io capisco il perché so correggerlo e mi aggiusto anch'io. Magari non è il caso di cambiare proprio la funzione, gli richiedo la stessa cosa però con delle specificazioni diverse, perché magari non erano adeguate. O al contesto, o alla persona, o sostanzialmente. Quindi vedete che poi la valutazione è momento per momento, non è una valutazione solo bene e male, è una valutazione che deve essere finalizzata alla ricerca del motivo per cui quella cosa non è fatta bene. E il motivo può essere un motivo articolare, muscolare, ripeto, motivazionale, è da ricercare in tutte quelle elementi che noi abbiamo visto che fanno parte del movimento umano. Io sto chiedendo un movimento, una funzione è il risultato di una presa di informazioni, di una buona elaborazione, una buona organizzazione, di una buona attenzione, tutte quelle cose che ho detto prima. Io devo andare a vedere che cos'è che mancava in tutte queste possibilità, che dovevano confluire tutte in una risposta finale corretta, e lì valuto e vedo che cos'è che mancava. Quindi il durante è un durante molto importante, un durante quotidiano, momento per momento, per ogni volta che io faccio una richiesta. Perché altrimenti se io non lo valuto costantemente e l'esecuzione che io ho richiesto è sbagliata, lui perpetua nell'errore e quindi comunque acquisisce una modalità sbagliata. E se acquisisce, se ripete nell'errore, la plasticità che cosa, che era tanto mia amica, che cosa diventa? Una mia amica. Se io non dico il cervello come deve lavorare bene e faccio perpetuare dell'errore, fissa l'errore. Quando si impara un nuovo sport, se il istruttore non corregge immediatamente il vizio, un tennista, un qualsiasi altra specialità, e fissi l'errore, sono problemi a cambiare, perché lì la scheda all'interno del nostro computer si fissa in quel modo. Il legame è quello ed è veramente difficile poterlo togliere. Cambiare quell'assetto, quella riorganizzazione è veramente difficile. Per questo dobbiamo dare mai quell'attenzione fin da subito. Quindi correggere subito l'errore e guardare quindi momento per momento. No, valuto dopo. Tanto lo faccio fare poi in breve. No. Non si può. Ok. Detto questo come preambolo della valutazione, vediamo quando che cosa valutiamo. È ovvio che la cosa più importante per noi sarà quella che è la seconda parte che in parte vedete, cioè valutare la sensibilità, come si muove e così via, se sono libere articolazioni. Però prima di arrivare a questo, che è proprio il clou di quello che ci interessa, ci sono una serie di cose che non sono di secondo, cioè sono comunque importanti, di cui volevo parlarvi. Allora, mai dovete cominciare a trattare il paziente se prima non avete una serie di informazioni prese dal cervello subito. Questo serve a voi per organizzarvi rispetto alla diagnosi del paziente, il dottore del cervello, eccetera, ma anche per mettervi al sicuro di eventuali problemi. Perché un paziente neurologico può essere portatore di problemi che se voi ignorate perché non avete neanche la cartella clinica o che il medico non vi ha detto, vi possono portare a dei problemi. Quindi soprattutto nei pazienti acuti, insomma, in generale su tutti i pazienti dovete sempre avere o una consegna dal medico e comunque leggervi la cartella. Quali sono le cose che dovete sapere? Importanti. Se ci sono delle patologie cardiache, concomitanti alla patologia neurologica. Se ci sono patologie, vabbè, non mi spiego perché, ovviamente. Perché dovete moderare, cioè se ci sono problemi per 10 dovete moderare le richieste in base alle assolutizioni per dire. E così anche per quanto riguarda la sua eventuali problemi respiratori. Se è un paziente cardiopatico con problemi respiratori, tranquillamente vado lì e lo faccio stare senza cuscini. anche se io ho la necessità di dargli informazioni sull'allineamento, però posso fare questo. Quindi semmai chiederò l'autorizzazione se dal medico, che deve prendersi quindi la responsabilità sulle questioni dei parametri vitali e quindi tra invece respiratori, se posso adottare certe posture, cioè se posso metterlo senza cuscino, se posso posizionarlo in posizione prona, perché in particolare in posizione prona non ci va, neanche qui ha fatto problemi respiratori, quindi si chiede eventualmente al paziente se lo fa e se gli dà noia, ma comunque prima di tutto al medico. Cartella clinica ancora importante perché esami clinici, potrebbe essere portatore di epatite. Quindi andate a vedere sugli esami clinici se ha delle patologie infettive di cui prendere considerazione. Poi ancora, e i valori pressori, soprattutto gli emiplegici che hanno avuto un ictus proprio in genere, no? Spesso per problemi anche pressori, bisogna andare a vedere che pressione ha il paziente. Se è un ipoteso, bisogna essere massimamente attenti nel passaggio dal pieno all'ortostatismo. Se è iperteso, bisogna stare ugualmente attenti a non impegnarlo troppo, ad esempio, in che cosa? In apnea. Oppure in attività contro resistenza prolungata, perché aumenta la pressione. Non bisogna chiedere isometriche prolungate, mantenute in modo prolungato, perché con l'isometria c'è schiacciamento dei vasi, in seguito alla contrazione, quindi aumenta la pressione. Quindi andare a vedere in cartella clinica come sta oggi il paziente, che funziona soprattutto il soffio, va bene, va giorno per giorno andare a vedere questo. Proprio per mettersi tranquilli, no? So che ha delle varici, specialmente nelle donne di una certa età. Se andate a vedere che ha delle varici e vedete che l'arto, un arto è più gonfio, cioè più, ha una certa diciamo dimensione, comunque l'altro no, fermi tutti, no? Mi chiedere al medico se questo è normale oppure no, perché se io vado a mobilizzare un arto con una trombosi, il rischio che si stacchi un endolo, va nel torrente sanguigno e poi la prima cosa che succede è che il primo lume piccolino che trova è quello a livello polmonare e va in livello polmonare, per cui bisogna sempre prendere dati per la cartella clinica. Oltre a questi dati clinici, strettamente clinici, sono per me importanti altri dati che un po' ci può dire il paziente, altre volte che bisogna la cartella, comunque in genere ne facciamo dire al paziente anche per prendere contatto, per conoscerlo, e sono i dati personali, quindi parte quanti anni ha, che lavoro svolge, se ha una famiglia, e insomma una serie di informazioni di questo genere. E oltre ad essere un modo per acquisire informazioni su quello che può essere, si può orientare, insomma, a capire quello che era la sua esperienza motoria precedente, che è ovvio che se mi capita un equilibrista, uno che lavorava al circo, io dico, caspita, una persona che aveva una certa destrezza motoria, se mi capita invece una persona che fa un lavoro sedentario, che magari ecco, un artigiano che ha un certo tipo di altre abilità nella sua memoria già conosciuta, quindi so intanto il bagaglio con cui mi arriva e so anche quelle che possono essere le sue aspettative successive, okay? E quindi anche come andare a motivare questo paziente e su quali obiettivi sensibili di recupero posso mettere in campo in modo da coinvolgere la sua attenzione, la sua motivazione, eccetera. Vi dico, questo è preferibile, anche se li sapete, alcuni dati che vi facciate dire dal paziente, perché le prime impressioni sul paziente sono molto importanti. Intanto vi rendete conto, da quando vi chiedete informazioni, come lui vive la sua patologia. Se l'ha accettata, se non l'ha accettata. Sono persone che minimalizzano come se non avessero nulla. Ed è un po' un problema, perché nel momento in cui si va a fare la valutazione e quindi a smascherare i suoi problemi, a renderli evidenti, laddove c'è un atteggiamento di questo genere, bisogna vedere come la prende. Potrebbe deprimersi, potrebbe non accettare e chiudersi completamente e non voler collaborare. C'è anche questo, forse può accadere. Quindi devo vedere come lui, che rapporto ha con la sua patologia. C'è invece quello che le enfatizza. Cioè, ormai non sono buono più a niente, non faccio niente, non cammino solamente, ma magari in piedi già ci sta. Quindi, vedere come lui, che relazione ha con questa sua patologia. Di che umore è? Se è depresso, se è ansioso? Perché la nostra richiesta dovrà essere anche in funzione di come lui, del suo umore. Che se è una persona depressa, devo agire un modo. Se è ansioso, non devo fargli vedere, in ogni caso non devo fargli vedere troppo le sue difficoltà subito, tutte le io le ho viste, ma non le focalizzo tutte in modo da vedere ancora più, farle entrare in ansia ancora di più, perché tanto più depresso, tanto più ansioso, comunque alla fine succede che non collabora. Se sei depresso, si dà per dire e non vuoi fare più niente. Se è ansioso, specialmente su pazienti che hanno un ipertono aumenta ancora di più. Per cui se prima avevo difficoltà nuove, se avete poi sono ansioso non si muove più allo stesso modo. Quindi, e anzi, rinforzano la patologia ipertonica. Quindi se erano stati che possono ancora di più. Quindi devo un attimo capire come lui può, come lui vive questa situazione in modo da fargli delle proposte che possano o coinvolgerlo un po' alla volta, cercando di, se è depresso, cercando di andare a capire cos'è che può interessare di più, puntare su quella. Filone che può prendere la motivazione, può dargli motivazione, oppure se è molto ansioso cercare di fare delle richieste che assolutamente non mettano troppo allo scoperto le sue incapacità, perché altrimenti aumenta ancora di più la sua ansia e si incarta letteralmente, totalmente. Quindi è importantissimo questo. Poi vedere anche che tipo di ambiente familiare ha, se è un ambiente che lo stimola oppure se è un ambiente che lo affossa, nel senso che lei non sa più niente e quindi ci sono alcune volte che deve proprio vedere il paziente con la moglie o col marito e si va, ormai non fa più niente, come fa più niente, tanto che sta guardando, sta parlando, qualcosa sta facendo, non è che è un defunto, no, un vegetale. Quindi ci sono quelle situazioni familiari che ci rendono conto. No? Non ci aiutano assolutamente, quindi a quel punto vediamo com'è l'interazione familiare, poi magari parliamo un pochino con i parenti, perché se loro, cioè con noi ci stanno un'ora, con i parenti ci stanno tutto il resto della giornata, quello che noi facciamo in un'ora ce lo demoliscono in mezz'ora. Perché cioè, beh però, sì, ho fatto questo, ho fatto l'altro, sì, vabbè, però mi devi venire. Ma sicuro che succede? Quindi. Insomma, cercare di capire anche queste cose, perché poi il risultato è un insieme di tante cose. È sì quello che facciamo, ma poi anche tutto quello che è il paziente. Quindi è importantissimo. Poi, nel momento in cui prendiamo i primi contatti, noi vediamo come lui si orienta sul corpo e nello spazio. È un paziente che viene intanto in piedi, viene sulla sedia a rotelle, cammina da solo, cammina appoggiato, quindi già ci facciamo un'idea. Come cammina. E poi è orientato o non è orientato? Cioè mentre parla con noi si guarda intorno, quindi è una persona che ha degli atteggiamenti che tutti noi normalmente, anche se stiamo parlando con una persona tu per tu perché mi fa delle domande e io rispondo, ho comunque un'escursione dello sguardo, ho comunque no, l'istinto a, soprattutto se vieni da me, sono in una palestra, sono in un laboratorio, sono in una stanza, comunque c'è un'escursione dello sguardo per cui comincio a guardare intorno il paziente dice, ma allora questa è la persona, ma che, in che ambiente sta? È normale, no? Se ci fate caso tutti leggiamo in questo modo. Vedete se il paziente lo fa, cioè lui riesce a tenere considerazione, quindi attenzione solo su quello che sta dicendo a voi o può permettersi altri canali. Cioè, prendere informazioni da quello che dico, o anche può guardare, esplorare, può passare facilmente da quello che dico io all'interazione con la persona che l'accompagna e quindi intessere una relazione anche a tre. Non è così scontato che lo sappia fare. Questo mi dà indicazione del fatto che il paziente, ad esempio, può essere, diciamo, coinvolto attentivamente in modo molto settoriale. e quindi devo aggiustare prima il trattamento, comunque la consegna rispetto a questa capacità e poi cominciare a farlo spaziare dal punto di vista attentivo, quindi è importante anche questo, quindi vedere come orientato anche rispetto allo spazio, rispetto al suo corpo, perché magari se fanno delle richieste e vediamo come lui è seduto, sta sempre nella stessa posizione o ha degli aggiustamenti, delle situazioni nelle quali organizza le parti residue in modo, relativamente al suo appoggio. Queste sono già delle informazioni, perché il paziente sta lì accasciato e non fa assolutamente bene. E questo già ci dice che ci sarà da lavorare proprio anche sulla consapevolezza, sulle informazioni dell'appoggio, eccetera, no? Perché non è una persona che ha degli assestamenti posturali, sostanzialmente. Quindi sono già prime informazioni su questo. Poi sentiamo, interroghiamo con la sua funzione respiratoria, poi andremo a valutarla in modo più dettagliato. Intanto funzione respiratoria è già dalla cartella clinica, vedete insomma se ha ansima, se ha, no, se ha tosse, eccetera. E poi il linguaggio. C'è il paziente che parla, c'è il paziente che invece è afasico. E quindi vediamo quale linguaggio alternativo a quello verbale noi possiamo strutturare con lui. Perché c'è la possibilità che dobbiamo strutturare con lui un linguaggio magari gestuale o un linguaggio scritto. Dobbiamo accentuare la nostra mimica per farci comprendere, oppure possiamo fare una mimica perché comunque ha una buona comprensione. Quindi bisogna vedere, noi dobbiamo poi comunicare, noi diamo una consegna a lui, bisogna che siamo certi che la comprenda, dobbiamo capire come. Qual è il modo per essere compresi totalmente? Quindi dobbiamo andare a vedere qual è il linguaggio da instaurare. Quali ancora? Capacità cognitive. Appunto, attenzione a memoria, noi possiamo chiedere una cosa, passata nel tempo, magari che fa parte della sua anamnesi. Dobbiamo vedere se lui la ricorda, ci sarà poi il parente che ci può confermare o no, oppure abbiamo letto in cartella clinica che ha avuto magari un incidente e noi abbiamo chiesto, ma lei ha avuto un incidente, io già lo so che ce l'ha avuto un incidente, ma voglio vedere se lo ricorda lui, che se ha dei disturbi di memoria, oppure come va, sta bene, riesce bene, no, oggi ho mangiato, che ho mangiato? Quindi vedete, memoria passata, memoria recente. Perché se il paziente ha un problema di memoria recente è un po' più problematico la diagnosi, perché sapete che l'apprendimento è fatto anche di fissazione, quindi riuscire a far memorizzare solo la poesia ma l'abilità motoria è un fatto comunque di ripetizione e di fissazione, per cui tante cose che si dicono durante la seduta, informazioni, attenzioni, consegne per quando va a casa o per il resto della giornata quando poi è finita la nostra seduta, che noi diamo durante l'ora perché lui poi le mette in atto, se non c'è una buona memoria è un po' un problema, però dobbiamo assicurarci di non dare solo la consegna ma magari far ripetere più volte una certa cosa in nostra presenza prima di lasciarla andare, chiaro? Per cui è importante anche questo. E poi ovviamente, insomma, a seconda del livello di recupero, di quanto è abile, eccetera, vedere se c'è necessità di includere anche l'attività di terapia occupazionale per lo svolgimento dell'attività di vita quotidiana. Ma questa è una cosa che in genere comunque viene sempre, non nelle fasi iniziali, insomma, del trattamento. Allora, andiamo ora. Allora, andiamo invece adesso a vedere qualcosa di più specifico riguardante proprio le abilità. Allora, intanto volevo assicurarmi alcune nozioni, che poi appunto abbiate chiare alcune cose. Allora, intanto, allora qui mettiamo le caratteristiche di una paralisi periferica e qui le caratteristiche di una paralisi centrale. Ovviamente paralisi, paresi, significa deficit di movimento, un disturbo riguardante il movimento. Ho una paralisi centrale quando ho una lesione a livello del sistema nervoso centrale e quindi dove? Certo, non lo so. che encefalo. E periferica? Quindi solo nervo, anche radice. Dalla radice, dal secondo motoneurone, radice e poi nervo periferico. Allora, quali sono le volendo riassumere per inquadrare i problemi di un paziente con lesione neurologica? Noi dobbiamo sempre andare a vedere alcuni punti importanti di tutte e due, in ogni caso. Tono, trofismo, che altro? Sensibilità. Rimaniamo ancora sul muscolo. Un muscolo esprime, ha un tono, ha un suo trofismo, e che altro fa un muscolo? E quella è sua di natura, la forza. Tono, trofismo e forza. E anche qua. Questo proprio per ciò che attiene proprio la conseguenza della lesione da un punto di vista muscolare. Poi è ovvio, in ogni caso dobbiamo andare a vedere se concomitante c'è anche un disturbo di sensibilità, ma questo non riguarda il sistema piramidale, è un qualcosa che è in aggiunta al problema motorio in senso stretto. Quindi comunque noi dobbiamo andarla a vedere, perché vabbè, certo, se mi serve prendere informazione, se non ho l'informazione, da un punto di vista poi motorio qualche problemino lo dovrei avere, no? Però rimaniamo proprio sulla via piramidale. Allora, nelle patologie centrali, che parte del sistema piramidale viene compromessa? Viene a lesione? È tutto primo motoneurone, no? E paralisi periferica è secondo motoneurone. Allora, che cosa succede da un punto di vista di tono nelle paralisi centrali e nelle paralisi periferiche? Allora, nelle paralisi periferiche c'è un tono aumentato o diminuito? Diminuito. È possibile che sia aumentato? Mai. Impossibile. Perché il tono, se vi ricordate dalla neurofisiologia, c'è tutto l'arco circuito gamma che si esplica a livello midollare, quindi se passa attraverso radice posteriore che dà informazione e contrazione poi minima del muscolo per mantenere un certo grado di tensione, nel caso in cui ci sia una lesione periferica, questo arco salta, quindi automaticamente il tono diminuisce. Ma innanzitutto, che differenza c'è fra tono e trofismo? Il tono è la sensazione, il trofismo è la dimensione, è la massa, la massa proprio muscolare, quindi il volume. Quindi ci sono masse muscolari più trofiche e meno trofiche. E il trofismo viene alimentato da che cosa? Dal nervo. Quindi se io ho una lesione periferica, secondo motoneurone, nervo, il tono come può essere? Cioè, scusate, il trofismo come può essere? Anche questo diminuisce. Quindi è un muscolo, nel caso delle lesioni periferiche, che va incontro in modo piuttosto veloce ad ipotrofia, fino all'atrofia. E il tono ugualmente è immediatamente ridotto. Ok? Perché non passano più gli impulsi che tengono il circuito gamma, che tengono uno stato di pretensione di base in tutti i muscoli, no? Del nostro corpo. La forza come sarà? È diminuito per forza, da assente nel caso in cui non arrivi nessuno stimolo più da questa via periferica a deficit più o meno variabile a seconda di quanti assoni ancora riescono a innervare quel nervo, quel muscolo. Quanto di assoni è andato perso. Quindi comunque c'è una riduzione di tono, trofismo e forza. Andiamo a vedere il paziente centrale. Che trofismo mi aspetto in una lesione del primo moto neurone? Non è inversamente. Comunque, essendo sempre in contrazione, il muscolo non viene utilizzato in maniera corretta, quindi può diminuire questo. Allora, il trofismo non è alimentato dal primo moto neurone. Quindi il trofismo nelle fasi iniziali di malattia è assolutamente ben mantenuto. L'ipotrofia nel paziente centrale si instaura nel tempo perché è da non uso, cioè se la paresi persiste nel tempo, il trofismo che inizialmente è ben mantenuto, perché le masse muscolari rimangono della stessa grandezza, via via, se non riprende il movimento, comincia a diminuire il volume muscolare. Quindi si dice che va in ipotrofia o atrofia ex non uso, sui testi tra da non uso, e quindi comunque va a diminuire anche questo, ma nel tempo, non immediatamente, da non uso, diminuisce ma da non uso. Tono. Come sarà il tono di un paziente con lesione del primo moto neurone? Allora, in teoria non dovrebbe esserci diminuzione, perché il circuito gamma sotto sta funzionando. Allora, abbiamo il muscoletto con tutto il circuito gamma sul midollo, qui abbiamo la cellula che è stata lesa, va giù, prende contatto e poi c'è tutto il circuito che mantiene il tono. Allora, se sperimentalmente si mette fuori uso una cellula gigantopiramidale di pezzo di tra la corteccia, di fatto il tono non aumenta, semmai un po' diminuisce, cioè, o comunque rimane così com'è. Ma una lesione pura soltanto del primo moto neurone, nelle lesioni centrali, cioè clinicamente poi, non sperimentalmente, clinicamente è rarissimo che accada. Perché? Perché le patologie cerebrali, o comunque un po' tutte le patologie, anche midollari, è difficile che siano così selettive che sono di un millimetro quadrato che prende solo quella cellula, solo quelle cellule, e non le aree vicine che sono delle aree extrapiramidali che hanno una funzione di modulazione sugli impulsi che discendono attraverso il primo moto neurone. Questa è la circonvoluzione frontale ascendente. Subito attaccata all'area 4 ci sono la 4S, la 8 di Brodmann, cioè sono tutte aree extrapiramidali che hanno una funzione di modulazione sugli impulsi e che scendono qua e che quindi in un'alternanza di somma più e meno di impulsi alla fine comunque a livello midollare esplicano un'azione di inibizione su questo arco riflesso. Se io tolgo questa modulazione che viene dall'alto, da queste aree vicine all'area circonvoluzione frontale ascendente, cosa accade? Che cosa arriva qui? Cioè che cosa succede qui? Che qui è un arco riflesso esaltato e nessuno più lo inibisce dall'alto. Per questo è ipertono. Perché non perché viene meno solo l'impulso discendente dal primo motoneurone, ma viene meno tutta la funzione inibitoria delle aree extrapiramidali vicine a quella motoria. Ok? Quindi si ha come risultato un'esaltazione dell'arco riflesso che tiene il muscolo in tono, Per cui il tono, essendo non più modulato dall'alto, è iper, diventa ipertono. Ok? Per questo è ipertonico, perché non c'è più l'inibizione centrale. E clinicamente, quindi, si dice che una lesione centrale, siccome non è solo la via piramidale, di solito c'è sempre qualche altra, è una lesione un pochino più allargata, prende anche quelle vie che poi vanno a inibire il tonico in basso. Quindi c'è un'esaltazione dell'arco riflesso tonigeno e per questo c'è l'ipertonico. Tuttavia, quindi possiamo dire che in genere il tono è aumentato per questo. Tuttavia ci sono dei casi in cui il tono è diminuito nelle paralisi centrali e solo nelle fasi acute, praticamente. Quindi nel traumatizzato cranico acuto, nel midollare, nelle fasi immediatamente dopo il trauma, o anche nell'emiplegico, nel momento subito post-ictale, ictale, cioè l'ictus è quell'evento lesivo vascolare in genere, non è detto, è un genere vascolare, che è repentino, altrimenti si parla di ischemia, che in genere non è così repentina, o di altre. L'ictus in genere è di tipo emorragico. Quindi nel caso in cui la patologia intervenga in modo ictale, cioè immediato, cosa si ha? Non si ha ristaurarsi subito l'ipertono, si ha in prima battuta un ipotono, dovuto al fatto che è come se ci fosse un breakout, una disconnessione fra i centri superiori e i centri bassi, i midollari che presiedono al tono, per cui c'è un breakout, la cosiddetta fase di diastasi. Poi man mano che c'è la riorganizzazione delle connessioni fra l'alto e il basso, il tono non solo ritorna, ma aumenta perché non ha più l'inibizione dall'alto. Chiaro, no? Ok, quindi diciamo che clinicamente dice in genere aumentato, tranne che nei casi. La forza. Cosa succede alla forza? Non ha bisogno di... La forza non può che diminuire, perché se abbiamo detto che la via piramidale è quella che presiede all'impulso che poi è trasmesso a livello muscolare dal movimento, la contrazione, ovviamente la forza diminuisce. Un discorso che poi faremo, amplieremo, nel caso soprattutto dell'emiplegia, delle patologie dove c'è questo grosso ipertono, non sempre la forza, cioè la forza residua è facile da valutare in modo esatto. Perché? Perché se io ho un muscolo con un grosso tono, con un grosso aumento del tono, e quindi in pratica è uno stato di contrazione, già di precontrazione, è difficile valutare effettivamente quanto di capacità di contrazione, nel senso di forza, quel muscolo può esprimere, perché è imprigionato da questa contrazione di base. Se non riesce a detendersi, ad allungarsi e poi a ricontrarsi, come faccio a determinare quanta forza? Cioè rischio di includere nella mia valutazione di forza anche la forza datami dalla contrazione dopo. Non so se mi devo spiegare. Quindi nel paziente con paralisi centrale, più che di una valutazione analitica della forza, cioè del singolo muscolo, noi andiamo a valutare la qualità del movimento. Si fa un'analisi più di tipo, una valutazione più di tipo qualitativa piuttosto che quantitativa. Non ha molto senso. L'altra cosa fondamentale è questa. La paralisi del paziente centrale non è una paralisi di muscolo, ma una perdita di schema di movimento. Perché non c'è possibilità che una, come dire, mentre ogni nervo va esattamente a quel muscolo, a innervare quel muscolo, quindi se c'è un ostacolo al passaggio di impulso in quel nervo, sarà quel muscolo e nessun altro che quello a perdere la forza. Nel caso delle lesioni centrali questo non succede, cioè io ho una perdita non di un solo assone, motoneurone 1, ma ne ho tanti che vengono da più parti e quindi io non perdo il singolo movimento del bicipite, io perdo la funzione di flessione e quindi non è solo il bicipite. e non solo della flessione, ma della flessione insieme, cioè del gomito insieme a quella del braccio e alla chiusura della mano. E della propria, quindi sono degli schemi di movimenti, non la capacità del singolo muscolo di contrarsi. Sono delle sinergie che vado a perdere. Ok? Quindi questo è fondamentale, perché poi quando vado a valutare non ha nessun senso dire a tot di forza il bicipite del paziente centrale, ma quello ipertonico già sta contratto al massimo, non riesce neanche ad allungarlo, che forza è tolto, no? È possibile discriminare l'uno all'altro. Quindi tonotropismo e forza. Sul tono, allora, come valutiamo il tropismo? Stiamo parlando di volto rosso. Come valutiamo il tropismo? Ah, nel paziente centrale, se vedete, il tropismo non ha molto importanza, soprattutto nel centrale, nel periferico un po' di più. Comunque si valuta semplicemente vedendo la differenza tra il muscolo leso e il controlaterale, no? Il muscolo che non si muove e il primo controlaterale. In linea di massima, su un paziente periferico, dove ho tutto disegno meno, cioè per tono, tropismo e forza, man mano che ritorna il movimento, ritorna anche il tono, ritorna anche il tropismo. Nel caso del paziente centrale, invece, io posso avere un paziente inizialmente ipotonico ma con un trofismo ben conservato perché siamo in fase iniziale, potrei avere un paziente molto ipertonico e con un trofismo normale perché siamo in fase iniziale ed è già ipertonico, con l'andare del tempo io posso avere un paziente molto ipertonico ma ipotrofico, perché è un muscolo che è perennemente contratto ma non svolge la sua funzione, quindi il trofismo di fatto non viene mantenuto perché non c'è pompa muscolare, e non c'è pompa muscolare, c'è poca erogazione sanguigna e così via, quindi il trofismo va a cadere. Chiaro? Quindi non vanno di pari passo. Ci sono situazioni nelle quali uno è conservato e l'altro è diminuito e viceversa. Quindi non sempre discriminare l'uno dall'altro. Questo per quanto riguarda il trofismo. Tono muscolare. Come valuto il tono muscolare? Lo vale scritto già lì. Attraverso la palpazione e attraverso la mobilitazione passiva. Perché? Perché è uno stato di tensione di base del muscolo, quindi io non posso valutarlo con il movimento del paziente, ma lo valuto mentre il paziente lo fa solamente meglio. Devo valutare una situazione in cui lui il muscolo non si contrae, perché è il suo stato di tono di base che va valutare. Quindi io vado attraverso la palpazione, dicevamo, e la mobilitazione passiva. Che cosa mi aspetto alla palpazione? Allora, nel momento in cui ho un muscolo molto ipertonico, io il suo bicipite è un muscolo tonico. Io sto sul ventre muscolare e il primo pressione e sento che resistenza offre questo ventre muscolare alla mia pressione. Lui è abbastanza tonico, tant'è vero che io imprimendo una pressione sul ventre muscolare in modo impercettibile, pochissimo, ma un pochino si solleva l'avambraccio. Quindi è uno stato di pretensione tale per cui anche soltanto facendo così un pochino si flette il gomito. Tanto più il muscolo è tonico, tanto più incontrerò resistenza e addirittura quasi un percettibile accenno al movimento che quel muscolo svolge. Quindi la mia prima indagine è sul ventre muscolare, la parte quindi più evidente, no? È molto tonico contro resistenza, se non è tonico, quindi è ipotonico, che resistenza è? Pochissimo, niente. i casi di flaccidità, che è il massimo dell'ipotonia, cioè proprio non c'è interruzione, non c'è silenzio, io vado quasi, cioè il muscolo diventa inconsistente, tutta la mia pressione, vado a sentire subito, sento subito il piano osseo, i piani profondi, che proprio è come un palloncino di doppio. Oltre alla palpazione sul ventre muscolare, io posso andare anche sull'inserzione. Quando questo? Quando devo discriminare in modo più fine se c'è un'alterazione del tono. Nel senso che ci possono essere delle alterazioni di tono, nel senso dell'ipertono soprattutto, talmente modeste, che io le posso smascherare soltanto andando sull'inserzione e al massimo dell'allungamento del muscolo. Perché magari nel, fino a un certo grado di flessione, in questo caso parlando di un bicipite, no, su bicipite. Se io vado a valutare il tono, lascio il tono così, lo posso anche valutare. Ma se fosse un pochino ipertonico e soltanto nei gradi ultimi dello stiramento, io lo posso vedere soltanto se lo vado a valutare al massimo estensione e sento se è tesa l'inserzione. Nel suo caso, anche se lui è tonico, ha un escludo tono, non è tesa l'inserzione, perché non è un ipertono. No? Chiaro? Quindi, può essere anche un paziente abbastanza tonico, una persona abbastanza tonica, ma l'inserzione difficilmente è tesa quando vado ad estendere completamente, cioè a mettere in una situazione di totale allungamento il muscolo che sta segnando. Perché siamo ancora nell'ambito del fisiologico. Voi avete sicuramente fatto in fisiologia del sistema nervoso l'ipertono spastico, la differenza tra ipertono spastico e ipertono plastico. L'ipertono spastico che accompagna le lesioni del primo motor neurone è un ipertono che ha la caratteristica della coltello a serra manica, cioè temperino nel senso di pelle, del coltello a serra manica, nel senso che dà resistenza alla mobilizzazione fino ad un certo grado di allungamento del muscolo e poi cede. Tuttavia, questo fenomeno, che è comunque tipico del paziente spastico, del fenomeno spastico, è particolarmente evidente nei pazienti con un certo grado di ipertono, quindi non con un grado sfumato di ipertono. I pazienti che hanno un grado sfumato di ipertono si smascherano proprio in questo modo, come dicevo prima, cioè andare a mobilizzare velocemente in estensione e sentire a livello dell'inserzione cosa fa. Negli ultimi gradi di movimento, tutt'altro c'è, cioè proprio lì che lo manifestano l'ipertono, perché non riesce a decontrarsi in modo da permettere di completare il movimento. Soprattutto perché l'ipertono spastico è velocità dipendente. Cioè, se io mobilizzo molto lentamente un paziente con ipertono spastico, dal tempo al tono, comunque, pur se patologico, di adattarsi un pochino alla lunghezza che gli vado a far assumere. Ma più aumento la velocità, più lui non sarà in grado, perché è una situazione di patologia, di adattarsi. E quindi vedremo che se io vado a mobilizzare velocemente questo paziente, vediamo proprio repentinamente l'aumento del tono, perché io sto di fatto effettuando dei riflessi di stiramento, sto elicitando in stiramento questo muscolo perché è contratto, non mi dà lunghezza. Se lo stiro velocemente, se lo allungo velocemente, io sto facendo uno stiramento, perché non c'è. Un problema di quindi sommo all'ipertono di base uno stimolo in stiramento che è un riflesso, per cui risponde il paziente in una flessione, riflesso di stiramento. Stiramento del muscolo, risposta riflessa in sessione. Ciò comporta che quando vado a mobilizzare un segmento ipertonico devo farlo molto lentamente se voglio che quel tono piano piano ceda e alla fine il coltello a serra manica ceda completamente, e poi completamente nei pazienti molto gravi, diciamo cede, ma se vado velocemente non cederà, cioè il coltello a serra manico io con questo fenomeno non lo posso vedere, perché anzi se vado a motorizzarlo velocemente, siccome il ripertorio aumenta perché è velocità dipendente, più aumento la velocità più aumenta il tono, io non faccio altro che sommare al ripertorio di base il riflesso di stiramento, perché se vado a motorizzarlo velocemente faccio di fatto lo stiramento del muscolo, e ha come risposta una contrazione ancora maggiore del muscolo. Quindi mi sono spiegata? È chiaro? Quindi quando vado a mobilizzare, facciamo una scopa valutativa, mobilizzazione veloce. Sì, e mi serve, la faccio veloce solo nel caso in cui ho dei dubbi su questo muscolo, il mio esempio è tutto sommato normale, però ho dei dubbi. E allora io vado lì sull'inserzione, mobilizzo velocemente in estensione e sento che negli ultimi gradi, che è un muscolo che non è completamente a posto dal punto di vista di tono, negli ultimi gradi non ce la fa vedere, rimane un po' teso. E quindi io lo sento sull'inserzione negli ultimi gradi facendo velocemente. Ma questo nei casi di ipertono moderato, invece in quello più grave neanche nei casi visibili bisogna farlo lentamente in modo da sentire quanto cede e valuti se è un ipertono di grado elevato, perché pur facendolo lentamente non lascia lunghezza più di tanto, moderato, grave o lieve. Cioè, ma in grado sì, fai velocemente neanche, cioè rimane contratto. Immediatamente vai in contrazione, perché essendo già molto in contrazione, in pre-contrazione, basta che vai di fame e già riflesso di stiramento. Lo stiri immediatamente, perché parte già accorciato. Questo di valutazione che il paziente come è seduto a letto, cioè nel senso che altra particolarità, l'ipertono centrale è un ipertono che aumenta se il muscolo è chiamato a muoversi in posizione antigravitaria. Cosa significa? Significa se io vado da un paziente. Allora, intanto la distribuzione proprio dell'ipertono è sui gruppi muscolari antigravitari. Quindi, a livello dell'arto superiore, secondo voi quali sono i gruppi muscolari antigravitari? Quelli che si oppongono alla gravità. E quindi saranno quelli che vanno così? Tutti quelli che portano in posizione antigravitaria l'arto e quindi saranno principalmente i gruppi flessori. Flessori di spalla, pettorale, flessore di gomito, polso, dita, tutti i gruppi flessori. A livello dell'arto inferiore quali sono i muscoli antigravitari? Gli estensori. E quindi è questa la distribuzione tipica dell'ipertono di tipo spastico. Quindi va da sé che, questo l'avrei spiegato ma meglio di peggio, ora lo se io vado a valutare l'ipertono del bicipite quando il paziente è in piedi e quando il paziente è in posizione supina, io posso avere delle piccole differenze di risposta. Se vado a valutare ad esempio il tricipite, che in teoria non dovrebbe essere come tono, non dovrebbe essere ipertonico perché è un muscolo estensore del corpo. Se il paziente è a letto ed ecco il braccio in elevazione, qual è il muscolo antigravitario? Il bicipite o il tricipite? Il bicipite. E io posso trovare un po' di ipertonico sul tricipite perché dipende dalla posizione. Quindi ci può essere una variabilità nella valutazione del tono muscolare del paziente ipertonico a seconda della posizione. Quindi posso variare il suo ipertono di un po', varia a seconda della posizione di partenza, se è una posizione antigravitaria oppure no. Quindi vi dicevo che oltre alla valutazione, oltre sul ventre muscolare, sull'inserzione, attraverso la mobilizzazione passiva fatta lentamente e se aumento la velocità aumenta il ripertorio. Quindi sento come risponde e mi dà una misura di quanto lui può essere, di quanto questo invertone andrà a disturbare il movimento, perché magari il paziente inizia il movimento e poi è bloccato da questo invertone, che altre politiche non lo fa andare, perché magari solo nei pendoli invertone riuscirete anche a completare il movimento, ma non riesce a portarlo a termine perché ha questo imbrinamento, questa copertura sulla forza dal tono. Allora, invece, oltre all'ipertono spastico, conosciamo un altro tipo di ipertono, che è l'ipertono tipo plastico, che è quello tipico del paziente extracranicale, che ha delle caratteristiche diverse, plastico, che viene definito rigidità. Per distinguerlo dall'ipertono spastico, quando si dice rigidità si intende rigidità muscolare, non articolare, rigidità muscolare, si intende un ipertono che interessa, a differenza del paziente con ipertono cronico, interessa sia i gruppi agonisti che antagonisti, e non è particolarmente, e non varia più di tanto rispetto alla posizione. Che allora, essendo agonisti e antagonisti, che cosa succede? Se io vado a mobilizzare, dove incontro? Allora, mentre il paziente centrale, piramidale, nella flesso estensione del gomito, dove incontro resistenza? Nell'andare in estensione o nell'andare in flessione? Nell'estensione, perché è più civile, non si rilassa, non sta in tensione, eh? Quindi incontro l'estensione dell'estensione. Se io vado a mobilizzare un paziente con rigidità extra, rigidità, quindi ipertono extrapiramidale, in quale direzione? In tutte e due. Sia nella pressione che nell'estensione. Caratteristica di questo tipo di ipertono è il fenomeno della propria dentata, cioè la tendenza del muscolo a cedere a scatti, come proprio nella... la volta dettata, quindi ingranaggio, ed è tipico dei pazienti extrapiramidali come ad esempio il Parkinson. Oltre a queste grosse grossi capitoli, diciamo, di alterazione del tono, che sono l'ipotonia e l'ipertonia, c'è tutto un capitolo meno frequente da un punto di vista clinico, ma comunque possibile da incontrare, che è quello delle distonie, che sono delle fluttuazioni del tono, che sono tipiche di lesioni dei nuclei della base, di tutti i circuiti extrapiramidali. Fluttuazione del tono, voi le conoscete, forse avete sentito parlare, corea, chetosi, sono delle fluttuazioni, nel senso che sullo stesso muscolo, proprio perché dall'alto arrivano delle influenze continuamente mutevoli, questi muscoli sono sottoposti a delle variazioni di tono continue, nei pazienti che hanno movimenti aletosici, cioè nei pazienti in cui c'è un'operazione di tipo atetosico, anche in, quando sono fermi, hanno delle piccole movimenti dovuti al fatto proprio che i muscoli variano la loro tensione di base. Quindi non sono delle variazioni queste del tono che vanno soltanto nel movimento, ma anche da fermi, proprio, no? delle fluttuazioni. E anche i movimenti che sono lenti, diciamo, distanti. I movimenti coreici invece sono più veloci e sono anche questi dovuti ad una fluttuazione del tono molto repentina che va a disturbare il movimento, perché va a influire sulla traiettoria sostanzialmente, proprio perché muta continuamente il tono. E quindi, come disturbi di tono, diciamo, questo è tutto quello che vi volevo dire. Grazie. Ok. Allora, ci vediamo venerdì prossimo.